Salve, sono Pasquale, vi parlo da Radio Big World e cerco di intavolare con voi un confronto che mi sta molto a cuore, ma non mi sento tanto preparato e non ho le idee chiarissime per affrontare il tutto con tranquillità. Perciò, se qualche cosa o qualche collegamento o qualche passaggio non saranno troppo chiari, e se vi interessa questo argomento, mettetevi in contatto con la radio e cercherò di spiegarmi meglio in un prossimo incontro. Allora, vorrei portare la tua attenzione su il fatto di mescolare. Prendi un bicchiere d'acqua, è trasparente, si stabilizza, si aspetta un attimo e si prende del vino, una bottiglia di vino, e piano si mette nel bicchiere che contiene l'acqua. E succede una cosa bellissima, si capisce cosa vuol dire mescolare. Cioè, questo vino prima segna delle zone rosse, abbiamo preso il vino rosso, poi invade tutta quella che era lo spazio occupato dall'acqua, poi trasforma il colore dell'acqua in un rosso chiaro, poi, se continuiamo ancora, trasforma il colore dell'acqua in un rosso più accentuato, che quasi quasi sembra vino pretto. In realtà abbiamo mescolato due cose, acqua e vino. Nella vita di tutti i giorni succede uguale: quando si mescola la fiducia che noi abbiamo in quello che gli altri ci comunicano e la nostra ragione o ragionevolezza, che diverse volte ci dice prendilo un po' osservandolo da distanza quello che ti dice l'altro, cioè questa fiducia mescolala piano piano come il vino con l'acqua, perché potresti illuderti di avere un bicchiere di vino mentre hai un bicchiere di ragionevolezza e di fiducia. È sicuro che la ragione vede in un modo differente tanti eventi della vita di tutti i giorni. Per esempio, quando siamo davanti a una forte emozione, la ragione dice a che serve, e l'emozione ti fa palpitare il cuore. Pensiamo ai nostri innamoramenti, che sono gli eventi dove le emozioni sono state molto forti, ai rapporti con i genitori, ai rapporti con i figli, dove sono nate forti emozioni, e la ragione è sempre intervenuta o subito o un pochino dopo per dire calma, guarda, stiamo mescolando acqua e vino, non illuderti, non è tutta ragione, quindi ragionevolezza, non è tutto fiducia. Io mi sono trovato diverse volte a parlare con altre persone della, si dice scatologia, ma vuol dire dello scopo finale della nostra vita, no? Cioè, cammini per la strada del paese e ti chiedi, ma perché io cammino per questa strada? Arrivi a casa, ti mangi una bella pasta asciutta e ti chiedi, ma perché mangio la pasta asciutta? Poi succede che ti prendi con tuo figlio, con tua moglie, con un amico, ti prendi perché non vedete la stessa cosa nella stessa maniera e ti chiedi, ma perché io vivo questa esperienza? Allora io ho cercato di darmi un interrogativo più che una risposta. Perché si vive l'esperienza della vita? Perché? È sicuro che qui domina alla grande il mondo di una certa filosofia e della religione. Due strumenti, la ragione e la fiducia, capaci di dare risposte al perché noi oggi ci troviamo, io, te e le altre persone che conosciamo, ci troviamo su questa palla che è la Terra, che gira velocissimo e noi non ce ne accorgiamo, ma questa è un'altra cosa. Comunque ci troviamo su questa palla che è la Terra e poi un giorno non ci saremo più. Ho cercato di riflettere su quel momento in cui avviene l'esistenza efficace, cioè l'esistenza attiva sul nostro pianeta, e un attimo dopo finisce questa esistenza attiva. Questo momento si chiama il momento della morte, che è per tutti, quindi chi non ne vuole parlare è stupido, perché sicuramente avverrà a lui e ai suoi cari, produrrà dolore, produrrà sollievo davanti a una malattia che rendeva la vita dolorosa, eccetera. Però avviene, quindi è indispensabile, secondo me, capire cosa significa la morte. La morte fisiologicamente è il cuore che si arresta, il sangue che non nutre più gli organi del nostro corpo fisico, il cervello che smette di dare segnali elettrici e successivamente una continuità di questo stato che porta a un disfacimento del corpo, lo vede pure in cento modi, cenere, vermi, altri aspetti meno gradevoli che forse è meglio non rammentare. In proposito, nella mia giovinezza avevo letto un libro di un signore che si chiama Lobsang Rampa. Il nome sembrerebbe quello esotico di un orientale, di un tibetano. In realtà questo signore era un baronetto inglese, era, perché anche lui è passato per lo scalino della morte, era un baronetto inglese che aveva sperimentato tante cose del mondo tibetano come studioso e ne raccontava in quel libretto una che è un po' raccapricciante ma che dà la realtà delle cose. Allora, quando in quella terra che è pietrosa, che lascia poco spazio, mi riferisco al Tibet, che lascia poco spazio alle grandi coltivazioni, dove la terra è veramente qualcosa di prezioso per seminare una manciata di riso e poter mangiare, eccetera, eccetera, allora in quella terra lì alcuni saggi decidevano che dopo la loro morte il loro corpo non fosse seppellito né bruciato, perché seppellire o bruciare consuma terra o consuma legna. Decidevano che il loro corpo fosse squartato, che le loro ossa fossero frantumate e che queste frattaglie, salvatemi la parola, venissero offerte in pasto agli avvoltoi che arrivavano subito e altri animali carnivori che arrivavano nel cuore della notte o quando non c'era nessuno. Non era sicuramente un disprezzo del corpo, ma era un voler affermare come il passaggio tra la morte e la vita è un fatto che non si può scansare. È come il nostro corpo, che è nato dalla terra, perché siamo fatti dei materiali di cui è fatta la terra, di cui sono fatti tutti gli altri esseri viventi, eccetera, perché questo corpo ritornasse a continuare a nutrire quell'ambiente da cui noi siamo nati. Perché questo qui? Perché quando si parla della morte, ognuno vede per l'istante dopo una situazione differente in relazione a quello che pensa, al paese dove vive e all'ambiente in cui è stato educato. Però ricordiamoci che La vita su questa terra ha delle regole che valgono per tutti, e questo ce lo dice il mondo della fisica, anche quella sperimentale. Cioè, se si ripete un fatto, i risultati, se il fatto è stato trattato sempre nella stessa maniera, i risultati sono identici. Allora, dopo la morte è sicuro che tutti faremo la stessa fine. Ma, per esempio, se noi si pensa a una persona che vive con l'idea che l'essere umano è fatto solo di questi sali minerali, di questi metalli, questa persona è convinta che nel momento in cui il cuore smette di battere finisce tutto e dopo non c'è più niente. Se osserviamo il mondo cristiano, la cosa cambia aspetto, perché in relazione a come sei vissuto, così continuerai a vivere spiritualmente nell'aldilà. Cioè, sei stato un malandrino, inferno, sei stato un compromesso, purgatorio, e poi finalmente una vita eterna e con la visione di Dio che completerà il tuo desiderio di stare bene. Quindi l'ateo dice finisce alla morte, il cristiano dice continua dopo, in questa maniera, come abbiamo detto. Il musulmano dice un'altra cosa ancora. Vi leggo un versetto del Corano perché spiega benissimo quella che è l'idea dell'Islam dopo la morte. Questo versetto del Corano, che è la 13ª sura, dice: il giardino promesso ai timorati di Dio, quindi dove andranno le persone timorate di Dio dopo la morte, è qualcosa sotto la quale scorrono fiumi. I frutti di quel giardino e la sua ombra, perché quando è caldo l'ombra ci vuole, saranno perenni. Questa sarà la dimora finale di quelli che temono Dio, ma la dimora finale degli empi sarà il fuoco. Quindi anche in questa religione, l'Islam, che è un pochino più materiale rispetto al cattolicesimo, c'è una situazione di benessere per i giusti e una situazione di sofferenza per chi non si è comportato bene. Poi un'altra idea che si espande parecchio anche nella nostra civiltà di oggi è quella del buddismo e delle religioni orientali. Lì la cosa è ancora differente. Dopo la morte avverrà che tu ti incarnerai di nuovo in un corpo fisico, che dice in un corpo di un animale, che dice in un corpo di una persona, che dice qualcuno anche nelle rocce. Comunque quello che a noi interessa è l'idea che dopo la morte non finisce niente, non c'è un premio o un castigo, ma c'è una continuità. E quando si rincarni, dice il buddismo e le religioni orientali, quale sarà la tua nuova vita? Sarà quella che ti sei meritato con il tuo karma. Cos'è questo karma, l'idea del karma? L'idea del karma è un accumulo nel nostro essere di cose fatte bene e di cose anche fatte male. Allora, in relazione a quello che avrai fatto in questa vita, quando di nuovo sarai vivo fisicamente su questa terra, potrai avere una qualità di vita migliore o peggiore pagando o godendo di quello che hai fatto nella vita precedente, senza ricordare assolutamente la tua vita precedente. Io ho voluto semplificare nel descrivere questi soggetti collegati alle religioni, ma penso che si sia capito che c'è tanta differenza tra quello che crede in niente, quello che crede in una ricompensa, quello che crede in una reincarnazione. E questi qui sono tutti atti di fiducia che ognuno di noi sceglie di fare all'ateo, al cattolico, all'islamico o al buddista. Concludo questa riflessione che mi sembra un pochino pesa, anche perché si parla della morte, e che so sicuro non è stata molto chiara. Però concludo ribadendo che senza dubbio quello che succede all'ateo, quello che succede al cattolico, quello che succede all'islamico e quello che succede al buddista saranno identici. Non si sa se tutto finirà, ma non è pensabile che all'essere umano che vive su questa terra, che ha delle leggi, la terra, la natura, avvengano cose differenti dopo la fine di questa esistenza e la possibilità o meno di nuove continuità. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio della vostra fedeltà a questa radio. Mi sento un po' in difficoltà per non essere stato chiarissimo, però prendetemi come sono, perché così bisogna. Vi saluto tutti uno a uno e alla prossima.